Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Questo libro non vuole essere né un atto d'accusa né una confessione. Esso non è che il tentativo di raffigurare una generazione la quale, anche se sfuggì alle granate, venne distrutta dalla guerra. Siamo a riposo, 9 chilometri dietro il fronte. Ci hanno dato il cambio ieri. Oggi abbiamo la pancia piena di fagioli bianchi con carne di manzo e siamo sazi e soddisfatti. Anche per la sera ciascuno ha potuto prenderne una gavetta piena. Inoltre, doppia porzione di salsiccia e di pane. Tutto questo fa bene. Un fatto simile non c'era accaduto da un pezzo. Il grosso cuciniere con la testa da pomodoro offre addirittura il cibo a chi lo vuole, a chiunque gli venga innanzi, fa segno col suo mestolo e gli riempie la gavetta. È disperato perché non sa come buttare la sua marmitta. Gaden e Müller hanno scovato un paio di catinelle e se le sono fatte riempire fino all'orlo come riserva. Gaden lo fa per ingordigia, Müller per previdenza. Dove vada a finire tutta la roba che Gaden ingurgita è un mistero. Lui rimane secco e magro come un'acciuga. Ma il più importante è che si è avuto anche doppia razione di tabacco. 10 sigari, 20 sigarette e 2 pacchetti di tabacco da cicca a testa. Non c'è male. Ho dato il mio tabacco da cicca a Kaczynski in cambio delle sue sigarette e così ho 40 sigarette per me. Ce n'è abbastanza per un giorno. Tutta questa grazia di Dio, in fondo, non ci compete. I prussiani non sono splendidi a tal punto. La dobbiamo semplicemente a un errore. 15 giorni fa, quando dovemmo andare in prima linea a dare il cambio, il nostro settore era abbastanza tranquillo, sicché l'ufficiale di vettovagliamento ricevette, per il giorno del nostro ritorno, il quantitativo normale di viveri, e fece provvista per una compagnia della forza di 150 uomini. Invece, proprio l'ultimo giorno si ebbe un'eccezionale sparatoria di grossi calibri e pioggia di grosse schegge. L'artiglieria inglese tambureggiava di continuo sulle nostre posizioni, sicché avemmo forti perdite e ritornammo con soli 80 uomini. Rientrati di notte, ci eravamo buttati là alla rinfusa per fare finalmente una dormita come si deve. Perché Kaczynski ha ragione. La guerra non sarebbe poi quella brutta cosa se solamente si potesse dormire un po'. In prima linea non c'è da parlarne e 15 giorni filati di veglia sono lunghi. Era già mezzogiorno quando i primi di noi sbucarono fuori dalle baracche. Mezz'ora più tardi, gavetta alla mano, eravamo tutti davanti alla cucina da campo che odorava di grasso e di appetitoso. In testa, naturalmente, i più affamati. Il piccolo Albert Kropp, che di tutti noi è la testa più quadra e perciò è soltanto appuntato. Müller Quinto, che si tira dietro ancora i libri di testo, sogna sessioni supplementari d'esame e sotto il fuoco tambureggiante biascica definizioni di fisica. Lair, che porta la barba intera e predilige le ragazze dei casini per ufficiali, giurando che per regolamento sono obbligate a portare camicie di seta e a fare un bagno ogni volta che ricevono un cliente dal capitano in su. Venivo infine io, Paul Boima. Tutti e quattro di 19 anni, tutti e quattro partiti dalla stessa aula scolastica per andare in guerra. Dietro di noi gli amici, Tiaden, un fabbro ferraio, magro della nostra età, il maggior divoratore della compagnia. Quando si mette a mangiare è sottile sottile e quando si alza è gonfio come una cimice gravida. Haie Vestus, anche lui dell'età nostra, scavatore di torba, che può comodamente chiudere una pagnotta nel pugno e darci da indovinare che cosa abbia in mano. Dethering, un contadino che non pensa che alla sua cascina e alla sua moglie. E finalmente Stanislao Kaczynski, il capo della nostra squadra. Duro, furbo, navigato. 40 anni, faccia terrea, occhi azzurri, spalle spioventi e un fiuto meraviglioso per gli odori, il buon mangiare e le buone buche per ripararsi. La nostra squadra era la prima a far coda davanti alla cucina. Ci si spazientiva perché il cuciniere, con la sua faccia da idiota, se ne stava lì, fermo, ad aspettare. Alla fine Kaczynski gli gridò: «Oi, apri un po' la cantina! Non vedi che i fagioli sono cotti?» Ma quello scuote imbambolato la testa. «Prima dovete esserci tutti!» «Tiaden ghigna! Ma se ci siamo!» Il caporale continuava a non capire. «Vi farebbe comodo, eh? Dove sono gli altri?» «Quelli non hai da mantenerli tu, ospedale da campo e fossa comune!» Il cuciniere restò di sasso quando seppe la cosa. «E io che avevo preparato per 150 uomini!» Crop gli diede una gomitata. «È la volta che ne avremo per il nostro appetito! Avanti, comincia!» Ma a un tratto Tiaden ebbe come un'intuizione. Il suo muso sottile da topo si illuminò, gli occhi gli si fecero piccoli dalla furbizia. Le guance gli ballavano e si fece sotto. «Oh, compare, ma allora hai ricevuto anche pane per 150, no?» Il cuciniere, sconocchiato e distratto, fece cenno di sì. Tiaden lo afferrò per la giubba. «E salsiccia pure!» Il cuciniere annuì di nuovo. Le mascelle di Tiaden tremavano. «E tabacco?» «Sì, tutto.» Tiaden si guardò intorno, raggiante. «Per Dio, questo si chiama aver fortuna! Allora è tutto per noi! Ognuno riceve... aspettate... giusto, giusto, doppia razione!» Ma qui il cuciniere tornò in vita e dichiarò: «Non va!» Risvegliati alla nostra volta dalla discussione, ci spingemmo avanti. «Che cosa non va? Oh, tulipano!» gridò Kaczynski. «Ciò che è per 150 uomini non può essere dato a 80. Questa la vedremo», brontolò Müller. «Il mangiare non dico di no, ma razioni non ne posso distribuire che 80», si intestava il cuciniere. Kaczynski si arrabbiò. «Daranno il cambio anche a te, bada. Tu non hai ricevuto viveri per 80 uomini, ma per la seconda compagnia, dunque basta, distribuisci, la seconda compagnia siamo noi!» Gli serrammo tutti addosso. Già nessuno poteva soffrirlo. Un paio di volte, per colpa sua, il rancio c'era arrivato in trincea tardi e freddo, perché al minimo scoppio di granate lui non osava farsi avanti con le sue casse di cottura e le nostre corvée dovevano fare una strada più lunga che non quelle delle altre compagnie. Bulke della prima valeva molto più di lui. Era grasso come una marmotta d'inverno, sta bene, ma all'occorrenza portava le marmitte fino in primissima linea. Eravamo proprio eccitati e si sarebbe venuti senza fallo ai pugni se non fosse spuntato il nostro comandante di compagnia. Si informò dell'accaduto e da principio disse soltanto: «Già, ieri abbiamo avuto molte perdite.» Poi guardò nella marmitta. «I fagioli hanno l'aria di essere buoni», il cuciniere confermò. «Cotti col lardo e con la carne.» Il tenente si voltò verso di noi. Sapeva che cosa pensassimo. Molte cose sapeva, perché era cresciuto in mezzo a noi, essendo entrato nella compagnia come sottufficiale. Alzò un'altra volta il coperchio della marmitta e annusò. Poi, allontanandosi, disse soltanto: «Portatene un piatto anche a me. Le porzioni vanno distribuite tutte, male non ci faranno.» Il cuciniere faceva una faccia da idiota. Tiaden gli ballava intorno. «Tu che cosa ci rimetti? Si direbbe che l'intendenza generale sia roba sua. Animo, comincia, vecchio sbaffapatate, e non sbagliare.» «Va sulla forca», sbuffò il cuciniere. Scoppiava. La cosa sorpassava il suo comprendonio. non capiva più il mondo e, come per mostrare che ormai non gli importava più di nulla, distribuì in più di sua iniziativa 2 ettogrammi di miele artificiale a testa. Oggi è proprio una buona giornata. C'è persino la posta. Quasi tutti ricevono lettere e giornali. Ora ce ne andiamo pian piano verso il prato, dietro i baraccamenti. Crop porta sotto il braccio il coperchio rotondo di un mastello di margarina. Sul margine destro del prato è costruita una grande latrina collettiva, edificio stabile, col tetto. Ma è roba per le reclute, che non sanno ancora approfittare di tutte le circostanze. Noi cerchiamo qualcosa di meglio. Sparse qua e là troviamo, infatti, tante cassettine a un posto per il medesimo scopo, quadrate, pulite, tutte di legno, chiuse intorno con un ottimo, comodo sedile. Sui fianchi sono applicate maniglie perché si possano trasportare. Ne avviciniamo 3 in cerchio e ci accomodiamo beatamente. Non ci alzeremo che fra un paio d'ore. Mi ricordo che da reclute in caserma si era da principio imbarazzati quando ci si doveva servire tutti insieme della latrina. Porte là non ne esistono, sicché 20 uomini sono accoccolati l'uno accanto all'altro come in un vagone ferroviario e si possono sorvegliare con una sola occhiata. Il soldato deve essere sorvegliato sempre. Da allora in poi abbiamo imparato a superare ben più che quel piccolo senso di pudore. Col tempo ci si abitua a ben altre cose, ma qui la digestione è una vera delizia. Non riesco a capire come un tempo si sorvolasse pudicamente su questi argomenti che sono naturali come mangiare e bere. Tanto che non occorrerebbe neppure parlarne se appunto non avessero nella nostra vita tanta importanza e non fossero proprio per noi cosa tanto nuova, mentre i nostri compagni ci si sono familiarizzati da un pezzo. Per il soldato lo stomaco e la digestione sono cose a cui pensa molto. 3/4 del suo vocabolario sono tratti di là e la massima gioia come la disperazione più profonda vi trovano la loro espressione più acconcia. Non è possibile esprimersi in modo più breve e più chiaro. Le nostre famiglie e i nostri insegnanti si meraviglieranno non poco quando torneremo a casa, ma è così, è una lingua universale. Tutti questi atti fisiologici hanno riacquistato per noi un carattere di innocenza grazie alla loro forzata pubblicità. Dirò di più, essi ci sono così familiari che il loro placido adempimento viene valutato, poniamo, come una partita a carte ben condotta al riparo dalle nespole. Non per nulla si è creato il modo di dire parola d'ordine delle latrine per indicare ogni sorta di chiacchierio. Siffatti luoghi sono nella vita militare quello che sono i circoli e le tavole riservate delle birrerie nella vita borghese. Ci troviamo dunque benissimo. Anzi, assai meglio che in qualsiasi lussuoso gabinetto smaltato di bianco. Là vi sarà dell'igiene, ma qui è più bello. Scorrono ore divinamente spensierate. Sopra di noi il cielo azzurro. All'orizzonte i palloni frenati, gialli, illuminati dal sole e le bianche nuvolette degli shrapnels. Talvolta si elevano a rosa come un fuoco d'artificio quando inseguono un aeroplano. Il sordo brontolio del fronte arriva a noi come un temporale lontanissimo. Il volo dei calabroni basta a coprirlo. E intorno a noi il prato fiorito. I fili d'erba si piegano all'aria mite e calda della tarda estate. Noi leggiamo lettere e giornali e fumiamo beatamente. Ci togliamo i berretti e li deponiamo accanto a noi. Il vento gioca nei nostri capelli come con la nostra parola e coi nostri pensieri. Le tre cassette sono in mezzo a un campo di papaveri rossi e splendenti. Ci poniamo sulle ginocchia il coperchio del fusto di margarina. Abbiamo così un buon tavolino per fare una partita. Crop ha con sé le carte. Si potrebbe continuare a sedere così all'infinito. Dalle baracche vengono le note di una fisarmonica. Talvolta deponiamo le carte e ci guardiamo in faccia. Allora uno dice: «Oh, ragazzi!» Oppure: «La poteva andar male!» E per un momento tacciamo. In noi è un sentimento forte e contenuto che ciascuno prova dentro di sé senza bisogno di molte parole. Facile sarebbe stato davvero che oggi non si sedesse su queste cassette. L'abbiamo scampata per poco e perciò ogni sensazione è nuova e forte. I rossi papaveri e il buon mangiare, le sigarette e la brezza d'estate. Crop domanda: «Chi di voi ha rivisto Kemmerich?» «È ricoverato al St. Joseph», dico io. Müller pensa che deve avere una ferita al femore, buona bassa per tornarsene a casa. Decidiamo di andarlo a trovare nel pomeriggio. Crop tira fuori una lettera. «Ho da farvi i saluti di Kantorek». Ridiamo. Müller getta via la sua sigaretta e dice: «Vorrei vederlo qui». Kantorek era il nostro professore, un ometto severo, vestito di grigio, con un muso da topo. Aveva presso a poco la stessa statura del sottufficiale Himmelstoss, il terrore di Klosterberg. Del resto è strano che l'infelicità del mondo derivi tanto spesso dalle persone piccole, di solito assai più energiche e intrattabili delle grandi. Mi sono sempre guardato dal capitare in reparti che avessero dei comandanti piccoli. Generalmente sono dei pignoli maledetti. Nelle ore di ginnastica, Kantorek ci tenne tanti e tanti discorsi, finché finimmo col recarci sotto la sua guida tutta la classe indrappellata al comando di presidio ad arruolarci come volontari. Lo vedo ancora davanti a me quando ci fulminava attraverso i suoi occhiali e ci domandava con voce commossa: «Venite anche voi, non è vero, camerati?» Codesti educatori tengono spesso il loro sentimento nel taschino del panciotto, pronti a distribuirne un po' ora per ora. Ma allora noi non ci si dava pensiero di certe cose. Ce n'era uno, però, che esitava, non se la sentiva. Si chiamava Josef Behm, un ragazzotto grasso e tranquillo. Si lasciò finalmente persuadere anche lui, perché altrimenti si sarebbe reso impossibile. Può darsi che parecchi altri la pensassero allo stesso modo, ma nessuno poté tirarsi fuori. A quell'epoca persino i genitori avevano la parola vigliacco a portata di mano. Gli è che la gente non aveva la più lontana idea di ciò che stava per accadere. In fondo, i soli veramente ragionevoli erano i poveri e i semplici, che stimarono subito la guerra una disgrazia, mentre i benestanti non si tenevano dalla gioia, quantunque proprio essi avrebbero potuto rendersi conto delle conseguenze. Kaczynski sostiene che ciò proviene dall'educazione, la quale rende idioti, e quando Kat dice una cosa ci ha pensato su molto. Per uno strano caso fu proprio Behm uno dei primi a cadere. Durante un assalto fu colpito agli occhi e lo lasciammo per morto. Portarlo con noi non si poteva perché dovemmo ritirarci di premura. Solo nel pomeriggio lo udimmo a un tratto gridare e lo vedemmo fuori che si trascinava a carponi. Aveva soltanto perduto coscienza. Poiché non ci vedeva ed era pazzo dal dolore, non cercava affatto di coprirsi, sicché venne abbattuto a fucilate prima che qualcuno di noi potesse avvicinarsi a prenderlo. Naturalmente non si può far carico di questo a Kantorek, che che sarebbe del mondo se già questo si dovesse chiamare una colpa. Di Cantorek ve n'erano migliaia, convinti tutti di far per il meglio nel modo ad essi più comodo. Ma qui appunto sta il loro fallimento. Essi dovevano essere per noi diciottenni introduttori e guide all'età virile, condurci al mondo del lavoro, al dovere, alla cultura e al progresso, insomma all'avvenire. Noi li prendevamo in giro e talvolta facevamo loro dei piccoli scherzi, ma in fondo credevamo a ciò che ci dicevano. Al concetto dell'autorità di cui erano rivestiti si univa nelle nostre menti un'idea di maggior prudenza, di più umano sapere. Ma il primo morto che vedemmo mandò in frantumi questa convinzione. Dovevamo riconoscere che la nostra età era più onesta della loro. Essi ci sorpassavano soltanto nelle frasi e nell'astuzia. Il primo fuoco tamboreggiante ci rivelò il nostro errore e dietro ad esso crollò la concezione del mondo che ci avevano insegnata. Mentre essi continuavano a scrivere e a parlare, noi vedevamo gli ospedali e i moribondi. Mentre essi esaltavano la grandezza del servire lo Stato, noi sapevamo già che il terrore della morte è più forte. Non perciò diventammo ribelli, disertori, vigliacchi, espressioni tutte che si maneggiavano con tanta facilità. Noi amavamo la patria quanto loro e ad ogni attacco avanzavamo con coraggio, ma ormai sapevamo distinguere. Avevamo ad un tratto imparato a guardare le cose in faccia e vedevamo che del loro mondo non sopravviveva più nulla. Improvvisamente, spaventevolmente, ci sentimmo soli e da soli dovevamo sbrigarcela. Elia Shilton ha letto Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.